cancello il signor Gio Marini. Certo. Perché è così basso? Basso sono. Sì, o sei lontano dal microfono? No, sono sempre lo stesso, sto. No, non sei sempre lo stesso. È come che c'abbi un... Che mezzo sto tranquillo qua. Strano, No, adesso no, adesso sì. Sei giusto, sì. Forse ero lontano dal microfono. No. Sono sempre vicino alla bocca. È il microfono suo, è originale. Così è, boh. Povero, lungo giù mio. No, perché c'ho sette rose, metto iscritto qua io, E più di quest'altro lo fa. Sì, ce l'ho anche io, lo scuso al massimo quasi ciò. Questo, più di 4 watt lo fa, Così che è 4 watt spaccando, Ci sono tarati 4 watt, vedi che su tanto non andano. Sono tarati proprio, Infatti, mi sono accorto, Non si muovi, Sono Rosmi, sono inserito sempre, vedo che è sempre lo stesso, così che... Ehi, va bene, ci sentiamo ugualmente. Sì, infatti, più di 4 watt e mezzo, è prestigio, non si muovi da anch'ivi. Cammi, poi senti a bordo, guarda di nuovo l'Ulassia. Infatti, sarà spaccato 4 watt, ce l'ho anche io inserito il Rosmi. C'ha 4 watt giusti. Per i furti, a voi. Va bene, sto. Non ci interessa a noi la potenza. La potenza lasciamo a chi la vuole avere. Ci scappava. Ma che lo fa che non c'è? Non può comprendere. Ma che lo fa che non c'hai? Eia! Sì, fai allora. Ah, l'ho sentito. E allora, invece senza far nulla. A te, dottore. Sì, senza fare nulla, dormito, sì. Ma che lo facendo già? Sì, facendo sta... La QRM da riga presso. Ma tu lo capisci, Aspetta, entri tu e arrivi il QRM. Io devo capire un po' e mi vuoi fare questa presa. Te Gio Mari. Eia, capito l'hai. È super bello ardito lui, ebbe. Gio Mari. Dalla minuto. E lei va tagliata là. Dalla giù tagliata. Comanda la qui. Eia. Ma me lo lascia. No, alla prossima. E cosa ne fai dell'erba? Quant'ore facciamo il cannone? Tore non ha problemi di erba, Tore non ha problemi di nulla, però so. Sia un grido, o sia che la devo piantare. E beh, cosa ha combinato so? Oh, ci mandate se mi scegli tutto. A chi era lì, al centro degli abiti, scusi. Ciao, cosa fa? La cucina un po' guata e mi ha aumentato la bacchina più alta, la di più vento. Quando è così bisogna stare attenti con i dozzi. Piace troppo la cosa d'oggi. E chi sarà malagiusto? Che ti piace troppo e non riusciva a staccarsi tira. Mamma mia. È buona. Vabbè. È ballerina, è stata sempre ballerina, capito? Un po' messo, un po' si abbassa, cade con prende il bavolo. Così che questa bocca me l'ha trovata un po' alta, Infatti, ma abbiamo mettato la pastina, una pastina di avevo un po' di sistema a stabilizzarla. Vediamo un po'. Alleluia, per carità. Cosa mangi? Cosa? Caffè, si poco come si deve mangiare, si gode, cazzo, ma è la ragione, ma tu tre zitti? Ma bisogna bere acqua, almeno un litro e mezzo di acqua al giorno bisogna bere. Ti arriva il caldo? Ma è la roba d'osso, ma non piace. Ma non le mangio assai io, ma non le mangio assai io, ogni tanto mi spiega, ma non so che c'è gelato, no? No, perché è aumenta, è ogni minuto, di più. Alza, va, alza, ma di che la sua è ballerina, così che, adesso mi da un po'. Questa altra carrozzia che devo fare, devo poi si abbassa. È perché la maggior parte è 135, 140, massimo 147, capito? Però ultimamente la uso bianca, pare era 183, perché non ha aumentato questa battaglia, una mezza partita, va. Sì, a me io sono lo stesso, a volte ce l'ho alto, a volte ce l'ho bassa, adesso invece in questi giorni ce l'ho appena bassa, me la sento, che mia voce la devo aumentare, di mangiare che cosa in più. E allora, sono già un 6 anni così. Ah, pastiglie. Sono 3 pastiglie al giorno, 2 gialle e una bianca. Vedi, quello è brutto perché da quando sei nato, no, se la prendi vuol dire male. La bianca è già vecchiaia, la bianca è vecchiaia, che no. No, aumenta ogni giorno, aumenta ogni giorno, ballerina, ecco. Ma c'è, quelli sono da piccoli, quello è molto grave, per la tribulia viva, minore, carità, ecco. Però se uno sta alle regole, è tranquillo, là. Però mi sembra che sono i tocchi che vanno in regola, ecco. Dai familiari di poi quella lì è più brutta, mentre quelli lì se ne si chiama, forse anche quelli che ha una certa età, di abito quella che piace magari, ma a me è tanto brutta, però anche quella potrebbe essere anche brutta se tu non ti regoli veramente, per stare la regola, sennò alle stelle, e già lo sai che la diabete può creare tante di quelle malattie che non avremmo l'idea. Carità, mamma tua, no? Io sapevo, non è stato di vecchiaia, capito? Prima non era, da giovane non era di abito. No, no. Famiglia, per caldo, ma è per l'umidità che non c'è niente da fare. No, da noi sai che fa meglio per nessuno, amico, nessuno è. Solo lui, che è vicino, e mamma e babbo, noi non li abbiamo. Puoi immaginare, che figuri non sono gli abiti. Però potrebbe diventare una certa età, capisci, perché come sono diventato io, mi ha interessato e sei venuta di appetito, purtroppo. Ti do, Casseo, fare dua, fare melone, fare cattaglia, di tutto urbano mangio io, mangio tutto col pane io. La frutta la mangio tutto col pane, puoi immaginare? Purtroppo ho mangio il pane. Ehi, dottore. Gianmari, dovresti mollare o il pane o la frutta, ma mangiare la frutta fuori lontano dai passi, solo lontano dai passi, però il pane, un pezzo e buh. Come ti uso, voglio mangiare un piatto di lettura. Dopo, insomma, ho tagliato un melone, quello giallo, bello, e ho bobbò, così lo. Dovesse un pane, e panino là, mi sono mangiato due fette col pane, ti puoi immaginare ciò. Oh, io molte volte il pane ce lo mangio, come si può dire, verso le 11, me lo mangio a pranzo. Poi il pomeriggio faccio merenda con una mela e la notte frutta non ne mangio, faccio solo cena normale e frutta la notte non ne mangio. Ma come ieri abbiamo mangiato lumache con patate, cazzo, quasi un panino di vino, a me piace, hai compito il pane, cazzo, e hai mangiato bene. E oggi non mi sono misurato, oggi non mi sono misurato per niente. Ciao, che prima di sera me la mia, servirò un po' a quattro ce l'ho, perché mi ha rimaniato un piatto di melastrone e di invece di melone, con un panino. Vedi, il panino non lo, quando è così, lo devi lasciare il panino, cioè io lo faccio colazione la mattina col tè e quattro fette biscottate e poi ho un pezzo di pane che mi mangio a biudu e a pranzo il pane non ne mangio e mangio di pomeriggio mi mangio una mela e la notte ceno lo mangio un pezzo di pane anche con la cosa che mangio a cena. Come regola per mangiare un panino al giorno, metto la mattina e metto la notte, però la mattina io mezzo bicchiere di latte con una fetta di scottate, se lo scaldo me le taglio a pezzettini, a fette di scottate, una fetta solo però, la colazione fino a pranzo. Però la mattina più di quella fetta non mangio altro, capito? Io mi mangio a merenda mi mangio la mela. Per la glicemia me la sono misurata e ce l'avevo normale, merenda non le faccio mai. Raramente a fare proprio merenda, vuol dire che ho mangiato poco a pranzo, magari, e allora mi viene la fame la sera, magari mi mangio una merendina, capito? Sì, allora mi mangio una merendina, altrimenti no, è raramente io faccio la merenda, capito? Sì, quasi mezzo bicchiere di latte mattina, a pranzo io mangio e la notte, molte volte magari mangio poco, molte volte se c'è qualche cosa che mi attira un bene allora io mangio, capito? E la frutta non mi manca mai, cioè, o mangio un occhio, oppure una mela, oppure mi mangio un arancio, capito? No, io sono mi sto regolando, mi sto sa che voi sta mangiando qualche pezzo di dossi, però no, non più di tanto. Sto calmo, sto, non so, mi sembra rimanere calmo. Ah, i dossi, e prima già li mangiamo, ma adesso vorrei che mangi dossi. Per dire che quando ieri notte io non sto mangiando con una amaretta e uno che i biscotti non mi so mettere, si chiamano quello tutto con la cappa che sono leggere con la cappa bianca che non mi ricordo come si chiama e si farineggia ricordo un taglio. No, io non ho ti dossi nulla, non ne zecco ne manco. Anche se no da voi non mangiare non me ne dico appena appena alterato. Pensiamo di regolarci un po' più di più e cazzo, ce la fa buona, se no. Sai com'è? Io prima di fare queste analisi, sono sempre 143, 147. Altro 148, non più, si è creato, poi domani devo andare a fare questa analisi, anche acqua, io mi occupato di un litro per più, per il bagno, andrebbe, che si può immaginare, certo, il turista si abbassa e certo la chiamata oltre acqua, e qualche volta si è aumentata, e allora mi ha dato una partita, che vediamo un po' a vedere poi se riusciamo a regolarla, ragazzi. No, io già sto tenendo normale, ho visto che ce l'ho molte volte ce l'ho a 114, 116, 114, sempre quel tanto lì sto andando adesso. Buono, è tanto, perché non si uguale, ognuno c'ha la sua, perché mi ha visto in tanti che mi ha detto, che una più dell'altra, ragazzi. Non siamo tutte precise, per cui la mia è così. Il primo periodo facevo 3 colline al giorno, facevo la mattina, a pranzo e la cena. Invece dopo ho cominciato a migliorare, me ne ha tolti due, la mattina per mezzo giorno me ne ha tolti. Però mi ha dato la fatica. Adesso faccio un'isolina solo, con 16 mg, solo la notte, capito? Solo la notte. Così che vedo un po'. No, a me da quando ho iniziato, prima c'avevo la pastiglia da 500 3 volte al giorno con la bianca, a poi me la ciamba dama fa manda durita da 8,50 gialla, allora devo prendere la mattina e la notte questa qua e al mezzogiorno quella da 500 bianca. Boh, ero se avessi di gatto. Acqua la bassa la radio. No, adesso ti sei alzato, anche di segnali appena ti sei alzato. Forse perché c'era il piede bollato del microfono. Non lo so. Veramente non lo so, cioè, prima era papà, adesso sei più alto di radio. A capo la fece baracchina allora. Guarda, è caduto. No, sarà diabete qualche baracchino. Ah, boh, devi se non ne gioco io. E cosa ne gioco? Chi ha l'acqua di vento? E non si dica. Forse perché c'avevo il pomello mollato del microfono, capito? Adesso l'ho stretto e forse per quello c'è la massa, capito? Ah, forse allora è per quello. Ma dovrebbe funzionare lo stesso. Ma comunque io già ti sentivo lo stesso. certo che sono sempre 4 watt, no, non va né più né meno, sempre 4 watt, così che magari il segnale 4 watt, la radio è un'altra cosa. Ciao Cucello, Luca, ci sentiamo. Cucello, sai Luca? Ah, ok. D'accordo. La riconosco, non l'hai più sentito, sono morto in Libia. Certo. Mi pare che su prima di Siena a due che non entrava quasi mai. E si sia sempre conto, vai dentro, gatta, boh. D'accordo, ciao Luca. E il vaccino, Gio Marino, se vuoi fare il tindino? Ma infatti, strano, eh. Cazzo, a chi... mi sia sempre, entra, sì, è là, diciamo, non mi risponde nessuno. Cazzo, vedo la sempre frequente. Ma invece, vedo che si è ritirato. Oh, va bene, no? Non finna apparato lui, non finna, si era attorrato. Tu sì, senza apparato. Beh, finnavo un minorito, ma però può attaccare, se mettono una gara, può solo far vedere con l'apparecchio vanno. Vabbè, se non vuoi entrare, che sbaglio. Si perde i cioccolati, si perde. Sì, vabbè, andiamo bene così. Vabbè. Sì, hai ragione. Già mangiamo ugualmente, e tocco. Sì. Certo, vuol dire che rimaniamo lì zeri. Ah, sì. Come se che dato la stessi. Non perché nessuno così, all'otto manda la stessi. Ti facevano la stessi, capito? Però lo dice così, no. Io non la dico, non manca, basta, non la stessi, non mi gioca a sentire, basta. Chi tu è, come tu è, rubizzino di casa? Chissà se a me mi pare che il computer è... si è attaccato al computer, va. Oh, l'ha fatto la ciavuccia pure, vado a se torna con il computer e... vabbè, ognuno fa quello che vuole, quello che crede. E diceva, però non la mettati quando una volta che entri è. Ma che tu portati le se tu ti entra anche su portati. Allora sai che hanno toccato un bio, chi ne tocca più ormai, pure lui sta passata la malattia, infatti io ve l'ho già acceso in chiesa, sempre acceso ogni tanto, gente ne che è importante il bu e sa vedere. Se ci avessi per qualcuno, sentite lei la portante. Sì, sono portante. Sono portante, entra il buco. Ho provato io, to. Sì, già lo so che sei tu. C'era bisogno che me lo dicessi, già lo sapevo che dici. Se sono portante il buco. Ma si è acceso. Capo, segna, entra. Ma che butta, va vedo il buco. No, per la regala qua, vedo. No, anche io l'ho acceso, è sempre acceso qua, però non lo... Io pure le sento le portate, però non lo... Non mi rivendi che la mia base, provate, basta, ma no, non me ne viene voglia, capito? Io preferisco più la 27 che batte di più. Fate un chilometro, due chilometri, cosa intendi? Perché il gommino lo racchi senti. Non senti nessuno, guarda, poca roba, solo quelli vicini, e basta. Mentre invece qua la 27 è tutta un'altra cosa, dai. Con 4 watt arriviamo anche in America. Ehi, a voglia. Secondo la propagazione che c'è, arrivi più lontano, buru. Così che... Basta con questo, basta questo e anche troppo. Bene, prima mi dovremmo avanti. Boh. 4 watt, già va bene. Cazzo, siamo due cuori di grabba. Di ex se non ne faccio. Boh, così che qualche volta così mi ha chiesto il controllo, se ci arrivo, boh, ma il resto non lo, ma che fa di chi si piace, boh. Sì, ogni tanto, ogni tanto ne arrivano di voti, ne arrivano e tappano, ah Marino, la saluti, senti a ben forte di si divora che è tu. Sono 26, ieri c'era una, i francesi c'erano, i corsicani c'erano, c'era la Corsica ieri sera, ah, e poi ci arrivi alle mie, a Iaccio via, c'era uno da Iaccio arrivava, no, per 10 arrivava. Io sul 15 l'ho trovato l'altra sera, ho trovato sul 15 questo qua di Iaccio. Infatti siamo rimasti una mezz'oretta, va vedendo, parlava in italiano, parlava a buia, il corsicano poco lo comprendo. Ma no, cioè, ho parlato con quello di portoghese, con il Portogallo, cioè, ho parlato, io non sono entrato, ma stavo ascoltando un po', anche su 34 ci sono gli spagnoli, Brasile, anche Portogallo, e arriva la Trumada, a Trumada arrivi, però sono tutti in banda, capito? Lo so, io solo 15 l'ho sentito questo qua, in FM era, in FM ci sentiva benissimo, cazzo. E quando buona la propagazione arriva dappertutto, arrivano, dai. Sentiamo anche la Polonia, certo. Sentiamo anche l'Inghilterra, certo. Quando la propagazione è buona, dappertutto arriva. Sì, infatti, quando è buono si arriva dappertutto, con questo piccolino a buia. Aspetta che va bene, sto che c'ho sette. Già sono quasi. Ma tu mirava un'anima a me, Gio Maria, mirava un'anima a me. Uscendo sto! Già stai uscendo! C'era Raiana che andò a friscia a Ciavie. Ma sta uscendo bene o male? Sì, abbassati appena che sei troppo alto. Guarda adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, c'è sempre un mette prima. Aspetta. Sì, andava là. E adesso? Abbassami le voci però, sentendomi. Ah, cosa, levarsi la batteria, andata a buccia. Io faccio il microfono normale. Normale non è di qua. Ci arriveremo a stessi. Allora, queste fatte arrivate sono, Giorni Maria. Già ci sono, già ci sono. E chi c'è? Chi c'è? Io, Salvatore, Gian Maria e così. E l'altro compagno Giulio. Buonasera a tutti, chi ha ascolto? Ma sei bippante sta gira, come ti mai? Per far parecchio giù, vado mal di Cina, pare mi è passato un treno in nato. Allora ha lasciato un pezzo di binario, ha lasciato. E allora un vagone. Come ti mai da sera che hai voluto entrare? Ero per le cose, impegnato, un bel. Sì, certo, era impegnato lui da Edo. Ciao Mari, bevuto hai? Tu sarevate un bozzo se bevenni. Quindi eri sempre impegnato lui. Ehi, fai visita contro visita, adesso ne ho una. Il giorno 8 dal pulmologo. E il 14 devo fare la mocco. Un'altra visita. Sì, dai. Ho finito di far visita. E da poi dovrei fare le analisi, le devo controllare. Stai, che siete schiacciati? Michele, stai, a chi è? Ehi, vi vuole un rapporto? Ciao. Sì, ci dà di semi. Sì, io credo che c'è semi che c'è pippante sta gira e c'è tazzetto c'è pulto oggi. Signori, buonasera. Buonasera anche a lui. Certo, sono proprio signori. Ecco, la buonasera. Ciao Gian Maria, non lo conosci più, bubu, appunto siamo. Si vede che stiamo qui per vecchiando, eh? Sì, la verità, eh. Io vi ho detto no, eh. Ciao Giù, buonasera. Ben entrato. A te mai scidati se io ti graziano, eh. Abbiamo sempre pignato con un computer, senza vedere le donne. Ah chi, ma io ho condividato, bobo, appunto siamo. Grazie, ma insomma, di Giù tu sei. Ciao Giulio! Ehi, ogni tanto già lo accendo. E cosa vuoi qua? Ma, tanto mi ha passato l'ora, tanto di no che è tutto morto. Fra poco devo piantare in campagna le crisantemi, così a novembre viene tutto un campusanto. No, di piantare, pianta rose, pianta che sono più belli, cosa crisantemi. Dai, restare i crisantemi e adesso al un campusanto. Chi si a Milano? Tu, io, stai a Pesì. Sono è da piccoli gatta che sono. Buonasera Giulio. Cazzo, a roba che stasera si è portato sotto a zitto, si è pulito, ma che c'è tutto pippante. Ah, così è, caspita, voglia. Insomma, la vuoi due o tre di la senza che quasi ho quattro buro. Quando stanno sapevo che è stato azzetto, in modo che da voi quando si presenta è tutto bello pimpante. Ah, c'è Maria, vedo di semi, bobo. Graziano, ormai da caso fa l'orto apostatico e chi sa casa è sempre impegnato. Però abbai denti, rosi, travaglia, e vedo abbai da solo, capisci? Ti fai così e fai là. Solo chi ci fa dietro? Non è che siate che fa dietro, no. No, no. Così fate tutto è da baita e da lomacone. Bene, così mi sono fuori tutti, mi sono. Vedi a fare la cosa, a fa fatica, no, vuoi te dietro. Capita, e andiamo. Bobo. Insomma, devi fare una specie di schiavista. Grazie, schiavista sei diventato. Padrone di casa, tu allora hai chiamato la padrona di casa per l'operaia e non andava bene così. Almeno impara, poi quando non ci sono io lo sa cosa deve fare. Ah così è, caspita, vabbè, là. Ordini ben precisi a parte tua. A proposito, ti saluti anche come tutti, sì? E uno la sai, comunque, si vuole aprire la campa. Avanti tu. Sì, capirà da ciacchi, giri bene. Noi siamo tranquilli qua. Meglio così. Bisogna riservarsi a questa età, perlomeno, alla mia. È un po' anche quella di Gio Maria, voi siete ancora giovani, cazzo, siete ancora nell'asilo. Beh, dai, mi capi, bubu, non è possibile. Gio Maria, se immaginate, ci sono ancora giovincelli. Ma, oh Giù, vai a due piantate di fragoli, cazzo, di l'orto a portare con il Graziano. Fa di fragoli che ha un turbugno e è diventato rugli come te di fragoli da che c'è per bagno di fragoli. Intanto ne ho fatto anche due stamattina, vedi grossi che ha un turbugno e le altre le faccio domani mattina. Ah, te Giù, ma io è tutto, se tu lo vedi va è prestito, fa un colore della fragola. Siamo mai diventato granata è diventato. pantalone gradato. Non è possibile. Ma sai che ci metta uno, ci metti tu. E va via lì. Le cariaci a tirare lecci, ma tu vedi come c'è. Ecco le pure cariaci a piccare la lecci. Ciao! Stamani a Giubbotto Bullotti di Anespola di chissà buona. A chi la via bocci la tazza con un cuttore un po' cuteva e sta germogliando. E allora poco fa le ho trapiantate nel vasetti. Dunque c'ho anche le nespole. Gli è buona, la frutta gli è buona vita, sono le fragole non mi piacciono, poi tutto il resto della frutta ce la mangio, tra le fragole e i pomperli no, niente da fare, però tutto il resto, l'arancio, mandarino poi poco, non assai, a meno che non si abitui di mezzo dolce, tanti ammigliani, soprattutto con un bagno, l'arancio con un bagno, mio marito. Proprio come ti cagliami in tempo di guerra. Allora, tu non hai mai mangiato pane con l'altro. Un bel di voci. Andare un bizzino sì, a voglia, pura che voce a blu, quando no, no, faccio altro, mangio un bani con l'aranzo. Lo grido. A me mi piace, la verità, io quindi sono un bagnato, la faccia asciutta con un bani, dunque, non ho problema. No, io la verità, la mangio, la frutta la mangio. Sempre non ti piace, ma metto il panino che basta, quando mangio un altro metto il panino che lo faccio sempre. Sempre, io la frutta la mangio quasi tutta col mare, io. Sia il melone, magari la Sibria no, però il melone per esempio, e la mela pure col mare, puoi immaginare, se mangio un pezzo di frutta col mare. L'arazzo non le fa per tempo, certo, minimo con l'arazzo, secondo qualche altro buio, magari con più maturo, un panino me lo mangio con l'arazzo, capito? Si può immaginare giù. Beh, un l'arazzo è buono, non mi Io non mangio, mi mangio i ciliegi a mezzo di minaccio, mangiato mezzo chilo, mezzi rotonde rosse sai chi ci guarda? Spagnolo Samuel, attento Samuel, ascolti la Sardegna Samuel, no è salito, non è il tempo più Samuel, ha detto che si chiama, vabbè chiama Gianni che è meglio. Lo so, il bagno è buono, però va un po' di calorie, tra il bagno e la minestra, la pasta, soprattutto la pasta asciutta, e lo battato fa un po' di calorie, e io questi sono butti, si fa di buoni a panza. Ah, Tore. E infatti, se si muove fa di buoni a panza, quindi meglio rimani senza agosto. Senza nulla è meglio. Beh, grazie a noi che ci ha mangiato un chilo di ciliegi. E te non ti canto ne devi fare, grazie. No, le ho mangiato la verità, anche due nespole. Però noi mi piace la sardina, ma se sto di serra. Vabbè, grazie buoni mania. Sono belli maturi, non sono roba nostra. E le ciliegie. Come frutta, come prima mi ha mangiato i tortellini con il suo a pezzettoni e i piselli, e come seconda mi ha mangiato una bella fettina e la frutta e l'insalata e cosa mi devo mangiare? Sì, Andy, beh, Andy. insulina can tutta notte. Oh, prima, allora, stamattina ce l'avevo 135. Ah, bisogna dare lui. Prima di pranzo ce l'avevo 145, perché mi ho mangiato 3 caramelle stamattina, nell'arco della mattinata. Dopo pranzo, allora, mi ha misurato di dare 165. Dunque, roba calorosa, non è che ne ho mangiato, ma questo è il suo, è caloroso. E come dolci, le ciliegie non è che siano i dolci dolci, sono un po' curati di una mezz'aspera. E niente, chi si ne espone, Maria Eva, perché non è roba nostra. E nulla, pane non ne ho mangiato. Ce l'avevi a 175, certo, è un bel mese. 165, e allora zitta, non mangio nulla. Ieri ce l'aveva a 87, cazzo, mi rubare in alcune, prima di mangiarmi. E infatti non me lo faccio il culo. Andate, anda. Riprendi, signor Gio Maria. Ok, le ciliegie le ho mangiate anch'io, però poche le ho mangiate a pranzo. Su andiamo, mi sono fermato qui, mi piace fare il Pasqua alla via Sicilia. Mi l'ha giubilato un chilo. Così mi l'ha mangiato, basta, non di più. Ho mangiato queste melone, sì, curbane gli ho mangiato. Ma a cariaccia un po' che miei. I calotti la mangio. Rubani è buono, a me mi piace un bel, però è un bel caruso, Tu pensa che un panino di solito pesa 100 grammi, 110 grammi. Sugli 100 grammi di pane, e vedo 265 calorie. Ma è di che no? Perché se ti ne mangi due, e arrivo, una pranzo e una sera, se la muoia. Oltre 530 a calorie, no, non è poco, non è poco. E consideriamo che una bastona massimo di riassumire in una vita 2000 calorie, 2100, una cosa del genere. E quando commette l'ubano, la patacciuta, la bistecca o la fettina, la frutta, la chetoncino, ma poi sta, si stiamo fuori sempre da questo livello di 2000 calorie. E così è, grazie. Già lo so, ma io se mi mangio la pasta, il pane non ne mangio, capito? E secondo me lo mangio senza il pane. Al limite, Maria Andrea mi dice un coso integrale, quei biscotti integrali, che fa il pane, mangio anche le biscottate integrali. O però i creche, i pacchetti creche, quelli integrali. Sempre marinacci sono comunque un po' di calorie, per esempio, pure di sono integrali, per l'anno mattese, noi che mi danno in bocca, è puro il greco, la mattese cosa. Ma, la dita, dottore, mi diamo la dieta, dottore, per farmi scendere un po' di pancetta. E poi state lì. E tu mi chiedi la dieta a me, vedi a me. Io mi ho messo a te tutti quanti qui. Pensa che la cattura è la lacrima mia, però. Portate a sentire mi perguntavo la lacrima mia. E che se no non mi date, la lacrima mia è la cattura. Allora, mi dà un picco agio, bubu. Sì, vabbè. Magari c'ho prima giovedì che devi venire a fare dieta, allora poi se ne andate a noi. Questo è vero, questo è vero. No, tipo che arrivi da una testa d'aria, bisogna regolarsi, anche io ormai 20 anni l'ho passati, quando mi danno 20 anni, sai, curriami, calorie, divulgiamo, avanti invece, in pensione, eccetera, cosa fai? Dalla poltrona all'unifarlo, dall'unifarlo alla poltrona, dalla poltrona alla banca, e allora ecco che le calorie, naturalmente, si va in abbastanza. Vai, Giovanni. Guarda, io, per essere sincero, quando scatola ci fate mangio, come regola devo mangiare un panino al giorno, mezzo a pranzo e mezzo a cena. Però se ci vuoi me ne mangio una a pranzo e una a cena giù. Ma come fai? Oh, io ho provato la dieta. Oh, scatta, ero volenti, c'era costato così, no? Non resisti più più. Stava a mangiare tutto, e così sono con femmine, e poi un po' la glicemia, un po' guasto, un po' cubana, e dai che si fa, rifare, un po' mica se la putti, fa dieta, anzi, tante chi dà ragione. Ah beh, allora come dici, che si sta? Anche tu preso la fame, ma se io vedo quant'anni, sono comunque tu preso la fame, invece no, ma la gente non se ne fa vedere più. E poi quando andare a vacanza a bacciccia. Vai, grazie. Ehi, ma a me ti ha messo l'ultima volta, mi ha detto che sei andato bene, l'ho perso qualche volta. Vedo qua, a chi ha voluto arricare la macchinetta? Vedo che segna qualche notte, un po' alta, come vai? Come vai? Se aggiungono di mangiare una razza più me lo mangio, ecco come mai. Vabbè, però non è che vada molto bene, ma non è ogni giorno, no, che me ne mangio due servite, invece di uno me ne mangio due. Non ho capito, intanto mi ho crepo di trono, ho crepo di dampi, dunque. E pensa così, e la bella pensa così, e non mi abituato. Lo so, logicamente, cerca di mantenere a freno un po' carino di paziente, no? La cosa, non è che fai una responsabilità assoluta, però hai un diritto e un dovere di avvisarti, no? A tutti noi, non so, è sempre stato così. Magari niente, più squadretto di lui, ma niente, e soprattutto più duro vedere i bisi puro. Anche io mi davi a uno di dottore, una cosa, la cosa per la più visto, la via Giambato. E una notte abbiamo fatto una cena in casa del mio cugnato, si è mangiato specialmente un piatto, la ranca, e si è abito un cucciolo di vino. Ma era detto, gli faccio per dire, se mi accomodi di tu, di arrivare ai pazienti tuoi, di regolarsi. Ma dice, io sono giovane, oh palle. Ah, che sei anziano, devo un gifame, vai tu. E infatti, sì, cioè, bisogna stare attenti a Eddie, non noi, non è da noi, no, noi a Eddie dovremmo stare attenti. Spera un dottore a respirare, mi dice, lo sai che il fumo fa male, tu, come ti va via 5 minuti lì, ma rifarà via giorno, tu, andò a pigliare una bibita e era in carriera a Bumeni. La vado a fare perché tutto l'orario in carriera a Bumeni. Hai compreso? Hai detto, bobo, tanto, pippa, una nissata, a te non ti fa di male. E allora, e tu sei un buon pervestito, secondo lo capoletto. Vabbè, dai. Io dico solo una cosa, l'anziano una volta di ziani, tutto lo che piace a bocca, lo goli tocca e non vera problemi, perché c'è cosa che uno di azia se la mangiava e di queste cose non si ne paventava nemmeno, forse perché non vera dei controlli allora, non vera tutti quanti che si controlli tutti, eccetera, eccetera. Sarà pure malissimo, sono momenti che gente che ha mangiato partendo 15 anni, la carriera di cambiare male, ha giudicato una femmina stata 116 anni ha compiuto ed è la seconda femmina più vecchia del mondo addirittura, 116 anni, se puoi immaginare, e tutta gente che da mangiare un visto a posta di pari e laggio, questa artista è la tazza di rovino, non se l'ha fatta mai mancare, che infettata. Vai Giovanni. Una volta abbiamo un dottore che mi ha piazzato un comune, si protegge di Santa Caterina, però mi ammetto, mi si chiamava Serra de Mino, mi pare che si chiamava, chi era sempre ubriaco, chi c'era sempre ubriaco, e lui si accosta che all'imbriacone, e tu era peggio dell'imbriacone. Ah, io me l'ha già avuto buono io, con Corti si chiamava, su dottore, era un politico buono, era delle quattro mura, se non si mi ammetto bene. Ho punto di più gordo, movimento come c'è, MS, come si chiama? MSI. E allora non me l'ha messo. Comunque, Isu, a carità, però questo il dottore era bravo, la verità, Isu, si mandava in faccia e sapeva la cosa va via. Dottor Concordi, sì, già lo so qui a Dubai, chi so è? Vogliamo se cantarla, è sempre per il gusto, per carità, e che poi c'era già un giuburo succede, non fare quello curando che briagone, per carità, mi la disabbato subito, non era possibile, cazzo, per carità. Un attimo che adesso un attimo, ci vai, già rientro con un break. Ok, già vai. Sì, e quello l'ho conosciuto, era un abitordinario del Bartolino, quello tutte le sere, mancabilmente, non mi mancava una lì, sempre al Bartolino, e me la metto, a chi lo ha riconosciuto, pensa che era il dottore di mamma, perché da giovane ero già paziente reso. Però devo dire che era un gran dottore, la verità, a differenza di altri randaggi che non ho provato, ma carità, che pochi sono più belli ragazzi di retta sopra la fine, prima di là, la via Castiglia, questa zona, quindi vedo una cosa dopo nel battaglio di leva, in chi, l'angolo, mi sono parlato dopo che aveva fatto Magliona, e l'aveva fatto, e vedi tu, che sono cose, quelli sono dottori, chi c'è un aino, chi c'è quando metti gli infermi in ambulatorio, si dimette che c'è anche 40 bastoni a sistemi pure, ma era detto che era stato impulsivo sull'ombra, vai to. E adesso allora bisogna punire la bressa, bisogna punirli. Entrate, di lì, mica facciamo noi pure in chili. Un attimo che vado in ufficio, chiudo. Vai, grazie. Sì, infatti io l'avevo eliminato quel medico, a parte che ho fatto il ciappino, capita. Era due anni curenti a mia moglie di dice va via gassisterite, gassisterite, la bella amata, ma sapete, posso sedire. Beh, alla fine cosa era, va via, le calcole all'Ufegato, ti puoi immaginare, e manco male che mi ha chiamato dottore, che si sta da pure, è stata operata e grazie a Dio la pure è stata bene, è stata bene ancora, ma gli dirò, e tu ne la curendo per la gassisterite, il buco, se voglio una bomba ti fai, è il dottore. Dice allora, era tutto macco era, e facendo delle cose, un bel dottore, ho fatto così, sono fatti, e poi c'è chi è boh, fatti da questi dottori, a voi non sono nulla. Che sono dottori, fatti apposta di borsetti, apposta di impegni, che l'hanno guardato la laurea di dottori, ma fare dai, non è possibile, ma ce ne sono tanti comunque, questi dottori così. Dottori buoni a me ne so, però io sono sempre dell'idea che gli istruttori più anziani, a parte non fatto che hanno fatto esperienza, eccetera, ecco, dovrei andare che sono fatto con l'istruttore del dottor Concordi, infatti il dottor Concordi abbia travagliato 8 anni e i filari abbia travagliato, e lui la fanno l'operazione, insomma, il pilare, perché abbiamo 8 anni di esperienza in ospedale e non è poco, quando uno lavora in ospedale è tutta una diversa cosa, è un altro dottore. Infatti, però se l'ha fatto tutti i fendicussi in ospedale e cose, e quindi lo sa come sono le patologie e tutto. No, come ti dici, che bisogno si dice che così magari a da voi andate da un altro e tutto diverso. Infatti, E poi ora che ci sono così generici, fa calendario, andiamo a pedire. Naturalmente sto concorso, ma abbiamo un laboratorio suyo, va via. Se tu entrassi in laboratorio, di chi sono tuoi, nonostante che io era un gran dottore o sole, laboratorio fa io con l'officina da carica, ma è povera beaga. E tanto va via, le laboratorie sono state fatte a legno e a vetri. Ma sai che non tu la metti questa cosa, ma fece in una maniera impressionante. Purtroppo i dottori buoni ce ne sono pochi, ce ne sono in giro. Infatti, no, ma lì c'è la brava vivo, Tu pensa che quando andava a una volta si sentiva male, era minorita, si sentiva male. E va via, un professore e un dottore. Il professore addirittura a pagamento, che non so se si chiacchierà a Tula, da dottore proprio a me, ma no. E allora abbiamo interpellato tipo professore a pagamento e non sono riuscito a curarla. Ha visto che la medicina sempre più male, c'è via, ma c'è la vita. Ma è un bulichetto di una mano, c'è la minoretta, cosa farà un po'? Non mi accusegnate, va via ancora. E quindi se la butto a respirare. Se la butto a respirare, e ho buttato il grande, mi era una panchina, e l'ho buttato in chilo, che adesso mi era molto vicino, per in pediatria, che mi era di resistenza. E a un certo momento arriva, passa il conduttore, il dottor Dore, lui va lì, senza averti distrutta, né buongiorno, né buonasera, niente. Ed è passato, l'ha guardato la vicina, ma era fatto, da lontano mi ha detto, perché non se l'ha tenuto un altro giorno a casa con la bambina, così gli sarebbe morta, così. Capita, mi ha parato un raio, mi ha parato, figurati. Beh, insomma, alla fine cosa va via? Va via un disco la piscina, te ne immagini? Ed le ragunelli gli parlano sempre che influenza e la piscina va via un disco, l'hanno subito recuperata e il dottor lì è sanata completamente, sai di che no? E non c'era successo, era andata a mare, no? E la piscina aveva pigliato qualche cosa da romare, tipo arselle, che cose così, e se l'ha mangiata, ed ecco che l'aveva attaccato un disco, completo, otto. Non è pulita la cosa, è tutto quanto, no, non ne devono mangiare, ecco così. Poi non era magari vaccinata per quel coso lì. No, in effetti no, ma noi non ci siamo le macabizzate, magari l'ha avuta questa cosa, sabbia che era una cosa che si mangiava e si era mangiata, magari era brutta ed era inclinata, ecco qual era il discorso. Il dottor lì è stata ricoverata in coro, in ospedale. Quindi il dottor lì è stata completamente, grazie a Dio, e tutto è andato bene. E così è. Un'altra volta si sente male mia moglie, andiamo sempre da questo dottor Concorde, di Santa Catalina. E dice, è bravo, la verità, era bravo. L'ha visitata e l'ha detto, mi fa male una gamba, eccetera, eccetera, no? Se l'ha mai dato in faccia, l'ha detto, e del mal di testa non mi dice niente, l'ha detto. E mi vuol dire che abbia preso il dolore di capo, però non l'ha detto, non so. Se l'ha mai dato, l'ha mai dato in faccia, e ha copiato di fronte del mal di dolore di capo. Ma se l'ha mai detto, era bravo questo, eh? E infatti ce ne sono molti dottori che... Infatti, che da una cosa di un'altra e te lo indovinano, secondo me. E basta che t'abbai, Dani, sanno subito cosa vai. Infatti, è così. Era bravo, come c'è il dottore era bravo, però era esiliato in una maniera impressionante. Io stavo niente, mi abbia fatto male allo bullice, allo idro, e me la mia strappato l'uglia, proprio strappata di mezzo l'uglia. E dunque la punta dell'unito era marginata praticamente, la punta proprio la bende, no, non l'uso, la bende, la carne. E se guardate, ho rivolto la forza e manipolato, va bene, questo è il punto, è l'unito. E da voi la cura, la di un marito, per curarlo, per medicarlo, deve andare dal suo medico. Va bene, e andavo da Edo. La prima volta che sono andato, e cosa fa via? mi sono piazzato io, l'udito è molicato, dai, è sanguinoso, una carta è attaccata all'udito. Allo stesso momento mi fate, metti il gomito sul lettino, ma io l'ho buttato la cadere sul lettino, mi ho fatto applicare il gomito, è da qualità, ti ha cominciato a toccarla, la butta. Sì, sì, anzi, sta guarendo bene, molto bene, così è che deve essere, così ho proprio così, meno male, lì si sta andando in sala, e con una trattata, e mi negava la grotta giù, un buonio, ha riproviso, l'ha fatto, sì, calma, così che si deve fare, perché deve guarire dentro prima, perché va via la butta nella carne e la basenata, deve guarire dentro, lo so, sopra guarisce subito, ma dentro quando guarisce, fra 20 anni, no, prima deve guarire dentro, poi sopra, compreso dopo. Se fatti, è così, prima deve guarire dentro e poi fuori. Infatti a me pure una volta mi è successa questa cosa, me ne ha trattato lo cose, me ne ha trattato, dice no, non ci vuole questo, e me l'ha baitato, me l'ha tornato a aprire, ed era con infezione dentro, vero, me l'ha tutto fatto, tornato a punire, a poi di cosa è, 15 di che non sono andato da Edo, era tutto già nato, era. Sì, fa cose così, fa detto, sì, così bisogna fare, bisogna guarire dentro, perché se no c'è il rischio dell'infezione, e se c'è l'infezione diventa critica veramente la situazione, e se vuoi immaginare, a me me l'avevi attrappato lui, me l'avevi attrappato, non era poco, fai dici quanto era la tua, e allora da lì non mi puteva più, ma chi a medicamento devi andare sempre, poi da mio papi, hai svegliato la casa, le case pulite e la costigenata, no? A chi? Un dito quanto sanguinava, la poi si incollava la casa, e tu quando dice, strappa, fa la strappa, piano, non c'è callare, strappa, non sarebbe manco, se un dolore è un mio. E io prima di niente, a chi travagliavo, ero travagliente, ma se no, non è che mi sono stato prendendo, andavo con un travagliato, con lui sbagliato. Allora cosa faceva? Prima di andare a curarmi, a medicarmi, pigliava l'acqua ossigenata, pigliava, la mudicava tutta casa con un coso, con l'acqua ossigenata, con un cotone, eccetera. E la casa mi diceva così, tranquillamente. E tanto me la pugna nuova, pulita la casa, e andava a Eto con la casa già pulita, e andava via, quindi gli andava a vedere la casa. Strappa, a piano, da strappa, non si è callata. Però in questo momento dove l'abbiamo attaccata, perché dove l'abbiamo sanguinetti, compreso, non so. Infatti, era quello che... A me era stessa, che non mi ha giustificato le due dita, mi è venuta via, in cura sempre, che non mi vedeva che va via lo goccio, mi diceva no, non mi mettere più di casa. Allora mi era via ancora bella la ferita. Cioè, ma così non ci sanno più le cose. Cioè no, lascia lo stoffetto, vedrai che tempo una settimana te lo trovi tutto chiuso, e infatti va via ragione. Infatti è così. L'amico della propagazione, questo locale qua, non accettiamo in questo momento questo da fuori, questo locale in Sardegna, per cui non tentare nemmeno nessuna modulare. Lo vedo, no? Il discorso è lì. E per uno va a vedere un parate, e dunque da dire un po' come partì. Ah, ma si è mai inteso, vabbè, si è mai compreso, ma la smetta, avanti, no. Oggi, e lì mi dice Gian Maria. Dai, c'è gente, mi entro dopo. Ok, d'accordo Gian Maria, ci sentiamo eventualmente più tardi, o se coincide domani, grazie. Ciao Gian Maria, grazie per la chiacchieratina, le punte, grazie. Avanti, Tore. Ciao Gian Maria. Se va bene ci sentiamo, ciao, ci sentiamo domani, ok. Aspetta, chi tu è, mi voglio sorpassarmi voi. Ma non vi rabbate, io poi non lo comprendo. Ciao, a domani se non rientri. Ah, rientrato, sì, grazie. Beh, la pulizia va. Lui la mai ritene che tu rientravi, va, grazie. Oggi sono qua a mal di bassa, sarà il tuo pigiama che mi hai stretto, va nell'acqua, dopo il mio ciao. Vabbè, una scusa di voi, un disturbo, una scusa di voi. stavo qui su un'altra che mi sono abbandonato, ma è di propagazione, no? Non venne a tempo. Oh, arrivati, arrivi in forza la pura. Che da, dai robe da sassa di matessimi, cioè la prima volta, che prende da un tipo di propagazione, no? Sì, andate. Ci do. A farsi comprendere, però non lo comprendo, quindi non entra oggi, chiusa la propagazione. Grazie, cosa ti hai mangiato? Ah, ma che ti hai mangiato? Un chilo di sigariaggia, sigariaggia e gaggendi. No, mi fa sempre così, dopo sempre così, noi che mi chiamavamo. E la giubilata, la si chiama, si mette un po' stringi troppo questa l'acqua. Ma è sempre così, lo sa, bisogna di che sono quasi, ma bisogna di dentro un bel di gusto. Beh, succede, Marcia, succede, che lo dico, dipende dalle vie, e la lunga visto che si mangia pure, poi va giusto a raggiungere tutti gli altri medicinali, di Sibiglia, tutto quasi brutto, ma non si sa, purtroppo succede, grazie. Ma a proposito, questo malattino, come scende, come ti andiamo in questa trappola? Io ti sento bene, e il mio come lo stessi. A voi si sento benissimo, si sento, grazie, è anche con un segnale abbastanza forte, 9.15, una cosa del genere, dai, come segnale, va benissimo, considera che la mia antenna è bassa e poi è un pezzo di virus, che si può immaginare, per cui va bene. Vabbè, è tutto, cosa vi dici? A me già sta arrivando bene, sta arrivando, non è così, va abbastanza bene, penna tutti io. Ok, anche tu già stai uscendo bene, la moglie, alla grazie, ce n'è anche per i polsi, già c'è, ce n'è per i polsi, pochi vatti, cosa va, questo malattino va? Stava nascendo psicopatico, di più un palazzino vecchio, molto vecchio, che me l'ho tolto stamattina, l'ho visto, adesso lo voglio provare, stasera l'ho attaccato, e già va bene, là. Io sto usando lo Zodiac, non sto usando l'altra, la roba, lo Zodiac, ero più di 2 mesi che non lo accendevo. Andare la batteria è che è un po' di fissuta, allora domani me ne può fare giù un'altra, quindi... Grazie, aspetta, c'era uno che sta facendo il brecco. Fammi il brecco. Questi sono problemi, grazie. Anche se può essere scarica, ma va benissimo, la radio è fortissima. È più che bene, va più che bene, per cui no, non ci sono problemi. Puoi anche tenere ancora con la batteria. Vai Giulio, aspetta un attimino che c'è uno da, non so se da Porto Torres che sta chiamando. Avanti il brecco, se non ti sentono sei lontano in mezzo al QRM, arrivi a Santiago 3, radio bassa proprio. A quanto ti sento? Boh. Se non ti sollevi un pochettino non ti sentiamo per niente. Tu l'ascolti? No, io non lo sento per niente, assolutamente, proprio niente. Sento solamente un brusio, però non si capisce niente di quello che dice, non capisco se uno è fuori, se uno è locale, non lo capisco, la verità. E tu, grazie. È uranio da oggi, no. Uranio, se mi senti, mettiti a posto l'antenna. Stai uscendo molto basso, piccolo piccolo, quasi incomprensibile. Eia, ciao Uranio, controllati il tutto perché sei molto basso, quasi zero. A quanto ti tiro fuori? Ho alzato il volume per vedere chi era. Capito mi hai? Ciao, controllati un po' il tutto. Vai tu. Sì, ho già cortato appena, ho già cortato, accanto non io cavava pura. si prende giù. Ok, no, io non lo sento più per niente, sento solo solo martello e schiaccio e basta, non niente di più, ma non capisco la sinistra. Eppure un anno, in quei giorni passati stavo uscendo molto bene. Ora metti da piombo, non stare sempre toccando l'apparecchio, lascialo stare una volta che è regolato, perché se no siamo sempre da capo. Vabbè, là. Comunque ti saluto se mi stai ascoltando. Se prendi, grazie. Io già l'ho detto, ma è pio pio, confronte ultimamente che sta facendo benissimo. Oh, un mezzetto fa l'ho sentito. Insieme al sorello Pupugno e ci va benissimo. Oggi è terra terra. Grazie che ha sempre fatti scegli. Vai tu. Io lo sentivo anche nei giorni scorsi, lo sentivo con il segnale di 8, lo sentivo. Ebbene, a volte 9, ma mi saluta proprio 00 a terra brutto. Abba. Chi ci sono Franzi? Ho visto qualche cosa. A quale deve essere Gianni di Navizia deve essere. Gianni di Navizia, tu sei tutto quanto pasticciato, solo di quelli lineari che non ti fanno sentire come si deve. Gianni di Navizia. E mai chi c'era Francesco? Guarda che Gianni di Navizia era, chi c'era Francesco era? Fa vedermi Francesco. Guarda che non c'era da Ragurcica. Oh, buonasera Marco. Buonasera a tutti. Oggi sono lento perché stanotte non ho dormito tanto bene. Ho fatto la risonanza magnetica stamattina. Già ne fa pochi rumori col macchinario. Aspetta, ti mettono i tappi delle orecchie mi, perché sennò ti asciudroneggia. Buonasera a tutti. Ciao Marco. Hai fatto una visita? Hai fatto quello che mi stavi dicendo ieri, mi sembra che me l'hai detto, ho fatto ieri, quello che ricordo. Comunque c'è uno in FM molto forte di segnale. Sì, sì, la risonanza magnetica l'ho fatta oggi ieri perché il medico che fa ambulatorio a Sassari c'ha l'ambulatorio privato, lavora oggi ieri, quindi è come che fosse ospedalizzato, non pago nulla, non so perché, boh, forse il ticket. E poi il responso me lo daranno fra pochi giorni e sapere questi occhi cosa hanno, se si può curare, come si può curare, insomma. Non ti hanno detto niente, il responso non te ne hanno dato, ti hanno fatto la visita e basta, e adesso devi aspettare qualche giorno e poi ti chiamano per darti il risultato. Eia, è certo che se uno è claustrofobico, caspita, in quel tubo ti mettono questa mascherina che ti poggia sulla fronte, i lati, quasi non vedi nulla, mi. È molto, come dire, costrittivo. Oh. Per fortuna io non sono claustrofobico, anzi mi stavo anche addormentando a un certo punto. Ma guarda un po' questi, adesso siamo sul 23. Attento, Gianni di Navizia con Francesco, se dovete parlare in FM, spostatevi di canale, perché siamo sul 23, voi siete in FM e noi siamo in AM, è chiaro che sentiamo il mormorio. O venite qua su questo canale, facciamo ruota, così la allarghiamo un pochino, ma è inutile stare lì sul 23 in FM, quando noi siamo in AM. Vabbè, comunque, fate come vi piace. Avanti, Tore. A me non mi detto il bagian pannuta, forse hai detto il peggio. Noi siamo più forti di loro, quindi dovrebbe entrare più forte, ma non vedete né Ede né noi. Io lo sento poco e nulla. Vabbè, anch'io lo sento poco, sempre quello, ma c'è questo mormorio sotto, insomma, non è. Anche la persona è poco intelligente, se siamo in AM e siamo sempre sullo stesso canale, e non solo in FM, è chiaro che l'interferenza ci può essere, magari ci sono anche a noi, non capisco cosa stanno provando. quando si possono spostare magari su un altro canale, o perlomeno venire qui su questo canale e i controlli così che li diamo noi direttamente, così è anche più tranquilla la situazione. Vabbè, avanti, grazie. Riprendi tutt'ora che mi sto facendo un punto. Anda piano, mi scatta, grazie, scatta che lo spruzzo, stai spruzzo assai, uiuia, si prende Marco. Eia, è tutto qua, là. Stanotte ho dormito, diciamo che ho dormivegliato, sai, per l'ansia poi dell'esame. Per l'intervento non so se debba andare o Thierry o a Sassari, quello non lo so. Vabbè, loro cercheranno di farmi andare là, perché c'hanno tutti i documenti là, ma penso che li possano rilasciare, no? Gli esami per operare a Sassari. Per forza te li rilasciano. Se ti devono operare a Sassari, per forza te li rilasciano i documenti qua. E a Vuglia. Ma com'è che dagli amatori pure? Ancora non ho capito una cosa questa. Dai dinamite, spostati, vai su in AM, non in FM, vai in AM, oppure ti sposti di canale, se vuoi parlare con Francesco e basta. Cosa stai a provare lì? Anche con Lignane, tra l'altro, quando noi siamo a vicinissimi come basta. Non è possibile. Sì, tanto non lo sento neanche io mio. Giulio, se vuoi fare uscire saretta già ribassami, tanto non ne comprendere manco ed non ne comprende, perché noi siamo più forti di loro, capito? Quindi se vuole stare in FM, che sia in FM, a me non me la dibatti. Bianco un attimo, fermi. Quello è a Porto Torres, non hai capito? Gianni è a Porto Torres e l'altro è a Usilo e dunque loro arrivano fortissimo l'uno all'altro e nella parte del FM, ma bisogna sempre ignorare che bisogna essere a fare una cosa del genere. Ma quando mai, Gianni? Ma com'è che pullo dagli amatori qui su Gianni? Non è possibile, facciano quello che credono, non me ne frega niente, c'è tanto. Non è che dà un fastidio così tanto, però sentire questo mormorio sotto la tua modulazione, o sotto quella di Marco, o di Graziano, sarà che a me mi piace sentire una bella pulita, però non è bello, ecco, trasmettere così, ma comunque, riprendi tutto. Sì, non ti preoccupare, già siamo sorvegliati, ti preoccupare, già vi pensano i piedi, fa questa cosa. Sì, ok, va bene, dai, non ci arrabbiamo noi. Perché? Cosa senti sotto di me le voci di loro anche? Per forza, perché scendi con un lineare e scendi, comunque su Barro Vecchio, non è possibile. Non va bene, è così, è da persone scorrette, non va bene. Oh, sentiranno anche a noi, però loro quando si piacciono si sentono bene, perché loro sono vicini, sono un tiro di schioppo, lì a Porto d'Oro, a Sorelli, a Usilo, e che si può immaginare, loro in certa età nostra magari non ne sentono. Non è che ti dà qualche da fastidio, io non sto parlando che ti dà fastidio, no, questo no. Però è anche una questione di correttezza, perché non va bene parlare così, capita, è così. Se no fa un casino e basta. Capito? Vabbè, riprendi, grazie. Ehi, ma io quando parli tu non li sento, quando parla Tore non li sento. Li sento solamente al limite quando mollo che per fare il passaggio sento la voce di loro, però come riprendo Ottore o tu non li sento più. E la galipà, la galiuga. Lasciate Bianco un attimo. Boh, a me sembra francese quello che parla. Ma non saranno corsicani, no? Io sento una parlata francese in FM. Poco fa sul 27 erano fortissimi ed erano francesi. Questi sono loro due, Gianni e Francesco, che sono passato io in FM, che li ho sentiti bene, ho passato io per un attimo per ascoltare chi era in FM, sono loro. Sì, ci saranno anche francesi, ma sono loro che stanno parlando in FM sul 23. Già, che chiamati, Monsieur beaucoup, vous parla francese. Era male il riposo, a che la linda fada c'è la metà tra di lui. Sì, comunque c'è una discreta propagazione. Vedi che sono francesi, li senti, Tore? Oui, oui! Sono forse in Buruso, sono francesi. Senti, sono francesi della Corsica. Ehi, hey, oui, oui, monsieur beaucoup, le la France. Va bene, dai, io rimango in ascolto che tanto sto andando avanti e indietro qua facendo roba, ok? Quel X per me. Ok, Marco, va bene, mangiare devi. Moni, già mangiato, anche digerito. Mezzugai, riprendi, Torricino. Eia, già sono passati, deve essere il giambato Lugano, il giambato. Comunque, questi sono francesi. Giulio, e allora? Ancora lì sì? No, adesso no, questi sono spostati, oppure hanno smesso, non lo so. Comunque che erano loro, perché sono passati io nel FM e li ho sentiti bene, per cui, e poi riconosco molto bene la voce. Vabbè, va a fare che si sia già ricompresa. Avrà l'inteso un braccio mio, ui ui, vai no! Sì, ma non Roma si legge un bebè. Andave dai. A chi è francese sardo è mischiato, però loro già vi capiscono la mia. Mi fa ridere, mi fa. Grazie. Ah, Giulio, a Graziano. Allora, se può la far vedere la francese, mi dice, ma che cosa fare? Far vedere e farsi vedere in arabo. A chi sa farsi vedere non far vedere? Grazie. Far vedere il sardo, ma guardate che si può prendere di più. E allora mi devi incendiare in inglese. Tutti in inglese. Yes, do you do? Che bisogno di francesi in FM è forte in Buruso, sono forte, ma lo segnale più alto dello studio, questo è un poco è forte in Buruso, cazzo, sono più forti di noi, sono degli italiani, sono un po' forti quanto noi, così avevi detto, noi non lo comprendo, tu non lo comprendo partito. No, va bene in italiano, va bene, e si è compreso. Hanno capito che stiamo parlando in italiano, gli italiani sono più forti di noi. Ma così ha detto, boh, io non lo comprendo. Non lo comprendo io. Vabbè, dai. Perché noi ci mettiamo sotto accento sempre, tutte le notti, per quello che siamo più forti. Senta che l'altro, hola. Ah, io, ci andemmo. Grazie, divino tu, hola. Ehi, attento, monsieur beaucoup, se comprendi, e sta sare, hola. Sierra, Sierra, adelante, ombre. Sì, non si comprende più nulla, no, grazie. Certo, bello. Andiamo, andiamo. Certo. Tocca a parlare americano. E vabbè, comincia, Nimi. A fare sovrappopolazione non si comprende nemmeno tra di essi. E te c'ho un monami della France, dai Roger, si ascolti l'Italia. E te c'ho un monami della France, dai Roger, si ascolti l'Italia. Cosa di tutto? Io voglio comprare la sede. Hai detto un attimino che no, che è poco, fai no, cu, non so, non si può preso uno da manchio, cosa era di zenni. Stai attento, e te c'è un monami da France, e te c'è un monami da France, dai Roger, ti ascolti l'Italia, se ti piace lo semino. Ah no, si comprende più che sono, so, comprende più che sei francese, dai, in FM, che gli si. Ah va, fai lei, questo è il lugar di soffretti. E l'amico con il lecco, occo. Duple, a duple, a domani a Manzano. Aspetta che c'è una cena, aspetta a farli cuscire a vedere, magari più forti. Aspetta, no, grazie. Ava su lecco e gli su trovecchio. No, lasciata, grazie, che è meglio, sentiamo più ben noi. È di meno di uno, è a metà. Potete mai lasciare voce che si capisce più bene. È in vicinanza, non mi capisci bene, però è lontananza. Arrivi forte e li borbandeggi. Sì, vabbè, già si gioca in manda, va. Spero Giulio. Sì, ogni tanto già fanno pausa. Sì, vabbè, dai, la preparazione purtroppo è così. Quando c'è preparazione si sa che la modulazione locale viene disturbata, è ovvio, no? Però va bene così. Non si ripone, è meglio paesi. Non immagini il semino. Allora, cosa dici? Grazie. Invitiamo a mangiare semino italiani. Comunque sembra che abbiano una predilezione per il canale 23, perché il 22 mi pare più silenzioso. Vogliamo passare sul 22? Passiamo sul 22, per me va bene. Come fai a dire come ne danno noi? Tanto quelli che sono le ferme, non è un problema, poi intanto sto ascoltandomi. Ho messo i fagioli, mi, adesso per dire, siamo rimasti senza bombola, no? Domani mamma ritira lo stipendio. Ho messo un bel fornelletto della Camping Gas, largo, un bijou, accensione piezoelettrica, molto molto utile, sia in casa sia fuori. Beh, certo, guarda, queste cose bisogna sempre vedere, addirittura ce l'abbiamo anche nella piazzeretta che abbiamo. Dunque, in caso dovesse capitare che improvvisamente manca la bombola, allora usiamo la piazzeretta, cioè uno se sta cucinando e manca il gas, è chiaro, cosa fai? Soprattutto anche perché io la compro sempre a Sassari, la bombola la compro io personalmente, ma non da adesso, da oltre 40 anni fa. E abbiamo una piazza elettrica, una cucina veramente, e ci sono le piazze elettriche. Attacchi lì, attacchi e via, e tira a campare. Vai tu! Prego un attimo! Avanti! Dai, devo chiudere che è venuta gente, Giulio! A domani se coincide! Ciao Giulio, ciao Sole, saluta mia Gian Maria quando entra, ciao Marco! E anche chi è l'assorto! Ciao! Ok, ciao, grazie! Saluta Rosy, ci sentiamo domani! coincide. Alle prossime, ciao. Riprendi, Ito. Ciao Graziano, buona proseguimento di serata, vai. La bozza che segnali, eh? Forti sono, sì, sono molto forti. Anzi, ce l'è di più, l'altro giorno lo Smitter continuava a salire oltre il 9, 9,15, uno è arrivato. Ma mi chiedo se questi siano con 4 watt o se usino lineari certi. Perché mi sembra dopo il 9, quando va oltre il 9, caspita, mi sembra un po' troppo. Propagazione fino a un certo punto. Poi noi siamo nel punto morto dell'attività solare. Lo sai, il picco delle macchie solari è ogni 11 anni. Più ti avvicini al picco, è maggiore la propagazione. Noi siamo invece proprio al picco minore, eppure, come vedi, volendo si fanno dei DX anche in banda laterale. Dipende da quale strato ionosferico si apre, o Marco. No, possono arrivare anche 9.30 tranquillamente, anche senza lineare. Non è la prima volta, guarda. Io non ne ho mai usato lineare, eppure tante volte mi hanno dato anche 9.30 e anche oltre. Per cui dipende sempre dallo strato o ionosferico. Sai, è fatto a strati, e quando si aprono tutti è chiaro che arrivano forti, proprio come se ce l'hai sotto casa. Eia, Tore, ci sei? Papà, Tore si è allontanato, deve essere. Forse, sì. Forse si è allontanato. Va bene, comunque. Avrà da fare. Mio Maria che aveva salutato perché aveva ospiti, dunque, grazie a Giulio. Siamo rimasti noi due solamente. Solamente noi due in questo momento. Va bene, Tore rientrerà. Bacchiglio stasera, non si è sentito Marino, e poi gli altri qui. Vabbè, comunque, lo stesso. Aspetta un attimo, mi sta chiamando mamma. Ascolti l'Italia, la Roger Sardegna che chiama, e te c'è un buon amico da Francia, dai Roger, se ascolti l'Italia, Roger Sardegna, metti? Avanti chi chiama l'Italia, avanti collega chi chiama l'Italia. All'anima dei francesi, eccomi qua Giulio. E cosa volevo dire? Visto che hanno risposto un po' caso, ma vai, tu capisci con la sede della lingua con quello che stanno dicendo, però sono leggermente spostati, infatti è per quello che mi sento molto bene adesso, perché sono a 227.857.80, sono lì, sono leggermente fuori frequenza quelle lì. Vai al 22. Sì, buono, è stato molto, italiano. Giulio, parola di 23, cambio. Dai, ma chi? Arrazza! Tu parli francese, oui? Ma ci sono anche i francesi, ma chi? I francesi sono più forti. C'è i francesi che abbiamo portato a 10, 9, 30. Ah, perché sono forti, cazzo, oggi. Poi hanno invaso il canale 23 oggi. Francisco, ti vai a ballare, vai a fare. Francisco mi sta parlando. Di Parigi, Parigi. Una parigia monese, qua tutta montagna la Sardegna, non è parigiata, ma tutta montagna, non corrigiamo lì. Eia! Ma abbiamo un mare bello, abbiamo le montagne, il mare bello, questo è italiano però. Dai, ma chi, fatti sentire. Non sento nulla, sono stolti. Non parlo francese. Lo occupa il bra, parliamo in sardo. E che c'è un buon amico della frase, tu appena l'hai stasciò, quando vale che ti ascolto, prego? Ah, ti sta a pigliarla. Marco. Per carità, uia. A te, Marcello, che fai oggi, lo fai tre, boh. Eia, poc'anzi, chi c'era? C'era Giulio, c'era Marco, c'era Graziano, c'era Tore, su 23, non riusciva a capirci niente perché i francesi arrivavano più forte di loro. Allora stavano pompando. La propagazione è buona. Come? Ciao. E chi c'è avanti, cambio. Squalo? No, c'è Squalo, è uscito un attimo. Gio Maria, siamo sul 22. Ah, c'è Bacchizio, passa sul 22, dai, io sto entrando oggi perché ho sentito a salutarsi, ma sto chiudendo questo oggetto, dai. Marco, ci sentiamo, ciao, fai Bacchi. Buonasera, giunto in casa, al 26 ancora, a domani esce tutto concile. Buonasera, chiamo Marco, non al 22. Ciao Gio Marì, ci sentiamo. Oggi ho fatto quella cosa a me, la risonanza magnetica al Sieri, e poi mi diranno cosa c'è, ok? Ciao, buona serata. Ok, tutto tranquillo, allora sto bene, sì? Insomma, la risonanza è andata bene, bisogna vedere il responso, poi cosa mi diranno, cosa c'è da fare, dai. Vabbè, quello che c'è da fare si fa, si affrontano le cose, dai. Ok, buona serata Gio Marì, buona cena, buon tutto. Grazie, ma auguro ancora anche a te, dai, fra un paio di giorni ce l'hanno detto, speriamo tutto bene, allora saluta mamma, ci sentiamo, ciao Marco, chiudo. Ciao Gio Marì, anche per Bacchisio, siamo andati sul 22 perché qua c'era troppo brutto, segnalone mi dalla Francia, non riuscivo quasi a udurare, dai. Ciao a tutti, ciao, vieni Bacchisio.